Ci vorrebbe un messaggio visivo, un paesaggio. Sulle rive di un lago, ai piedi delle Alpi, c'è un mercatino tipico. Un mercante italiano e un cliente ticinese. 100.000 lire, 30.000, 100.000, 40, 80, 50, 50, 50 euro. Affare fatto, venduto. E qui campanacci e trombe vittoriose e grida di successo, i nostri amici hanno trovato un accordo. Slogan e jingle. 100.000 lire, 30.000, 100.000, 40, 80, 80, 50, 50 euro, 50 euro. Affare fatto, venduto. Grazie all'Associazione Italo-Ticinese i nostri amici hanno trovato un accordo. Associazione Italo-Ticinese, da 30 anni il gusto per l'amicizia. Per i vostri progetti, associazioneitaloticinese.ch.